5F. Ascolta e rispondi. Dove abitavi quando eri a Londra? Abitavo in un mini appartamento. Dove mangiavi quando studiavi all'università? Mangiavo alla mensa. Con chi passavi le vacanze quando eri piccolo? Passavo le vacanze con i miei genitori. Quale sport praticavi quando eri nel tuo paese? Praticavo il tennis. Dove andavi di sera quando eri studente? Andavo in discoteca. Quale facoltà frequentavi quando studiavi all'università? Frequentavo psicologia.